Non vi è persona che prima o poi non si sia chiesta in che cosa consista la bestemmia contro lo Spirito Santo. Peccato, come afferma Gesù, che non può essere in alcun modo perdonato. Alcuni si sono posti l'interrogativo per curiosità, altri lo hanno dovuto affrontare per il sospetto di averlo compiuto. E alcuni di questi vivono con un continuo terrore, purtroppo, spesso nascosto di compierlo. Non possiamo quindi ignorarlo. Leggiamo in Marco 3, 20-30. Poi entrarono in una casa. E la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo perché dicevano «Egli è fuori di sé». Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano «Egli ha Beelzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Ma egli, chiamatili a sé, disse loro in parabole «Come può Satana scacciare Satana? E se un regno è diviso contro se stesso, quel regno non può durare». E se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non può durare. Così, se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può durare, ma è giunto alla fine. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni, se prima non ha legato l'uomo forte. Solo allora potrà saccheggiare la sua casa. In verità vi dico che ai figli degli uomini sarà perdonato ogni peccato, e qualunque bestemmia essi diranno. Ma chiunque bestemmierà contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è sottoposto a giudizio eterno. Asseriva questo perché dicevano, egli ha uno spirito immondo. La ragione per cui le persone si pongano l'interrogativo riguardante la bestemmia dello Spirito Santo è chiara, questo peccato non è perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Chi lo commette è colpevole di un peccato eterno. Esiste quindi un peccato che non può essere perdonato in nessun modo e che neppure il sacrificio di Cristo può cancellare. Gesù è morto per tutti i peccati. Marco afferma che agli uomini saranno perdonati tutti i peccati e anche ogni bestemmia che essi avranno proferito, ma riguardo alla bestemmia contro lo Spirito Santo, il suo sacrificio è inefficace. Nell'affermazione di Gesù risulta evidente che il peccato non perdonato sia una bestemmia. Non siamo di fronte quindi ad una trasgressione che implichi il sesso, come l'adulterio, o un atto derivato dal nostro comportamento, come il furto o l'omicidio. Gesù ha parlato di bestemmia. Inoltre rileviamo che la bestemmia non perdonata sia soltanto quella diretta contro lo Spirito Santo, e non quella rivolta a Dio o a Gesù. Infatti sta scritto che queste sono perdonate. Che cosa può essere dunque questa bestemmia contro lo Spirito Santo, giudicata da Dio tanto gravemente, da essere reputata imperdonabile? È importante, innanzitutto, comprendere il significato della parola bestemmia. Come il solito, volendo comprendere il significato di una parola, non possiamo inventarcelo né dedurlo. Quindi, l'atteggiamento più saggio è conoscerne la definizione data da un vocabolario. Eccola, espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio, i santi e le cose sacre. Imprecazione. Questo, infatti, è il senso che, inizialmente, aveva il sostantivo in questione. Basta leggere in Levitico 24, 10-16. Oltre i versetti di Matteo 9, 1 al 3, 26, 63, 65, leggiamo altri passi in cui questa espressione si è riportata. I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Giovanni 10, 33. Ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia, e bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Atti 13, 45. Risulta evidente che la definizione del vocabolario non ci sia di molto aiuto, perché Gesù non aveva certamente pronunciato delle parolacce, e i giudei non avrebbero mai proferito una parola ingiuriosa contro Dio. Dai seguenti versetti, Matteo 9, 1 a 3, 26, 63, 65, Marco 14, 62, 64, Luca 5, 21, Giovanni 10, 27-33, Comprendiamo che i contemporanei di Gesù attribuivano alla parola bestemmia un altro significato. Così, leggendo la parola di Dio e volendo comprendere il significato più intrinseco delle parole bibliche, si è costretti a considerare per ogni locuzione il senso che vi attribuivano le persone contemporanee. E noto infatti che una parola col passare del tempo non mantenga sempre lo stesso significato. Secondo i giudei, quindi, quando avrebbe bestemmiato Gesù? Perdonando i peccati al paralitico e dichiarando di essere Dio. Gesù ha assunto un atteggiamento che era prerogativa di Dio. Lo conferma l'atteggiamento del sommo sacerdote nell'accusare Gesù di bestemmia, perché aveva asserito di essere Dio. La bestemmia significava dunque per i contemporanei di Gesù attribuire l'opera di qualcuno ad un altro. Essi intendevano riferirsi al rifiuto deliberato e cosciente della verità conosciuta. Per i giudei Gesù bestemmiava, perché egli attribuiva le sue opere a Dio. Parlava come Dio, quindi per loro egli agiva coscientemente contro la sua evidente identità di semplice uomo. Gesù dunque, rivolgendosi ai giudei, usa la parola bestemmia con questo significato per asserire che essi attribuivano le sue opere potenti, chiaramente fatte con l'aiuto dello Spirito, Matteo, mezzogiorno e 28, all'intervento di Beelzebub, cioè il diavolo. Essi rifiutavano l'opera di Dio e, non potendo negare i miracoli, accusavano Gesù di operare per mezzo di Satana. Con questo atteggiamento essi bestemmiavano, cioè rifiutavano deliberatamente l'evidenza dell'opera di Dio, attribuendola a Satana. È evidente quindi che la parola bestemmia nel Nuovo Testamento non abbia il senso che noi gli attribuiamo comunemente, cioè imprecazione, parolaccia, ingiuria contro Dio. Se Gesù avesse inteso sostenere ciò, tutte le parolacce contro Dio e contro Cristo sarebbero perdonate, mentre quelle contro lo Spirito Santo no. In questo caso lo Spirito Santo sarebbe superiore a Gesù e a Dio. Qualunque sia la spiegazione, con questa affermazione Gesù ha messo a tacere una volta per sempre l'opinione che lo Spirito Santo sia solo una forza attiva di Dio, come alcuni ostinatamente affermano. Una volta compreso che al tempo di Gesù bestemmiare significava in definitiva avere un atteggiamento di rifiuto, valutiamo perché questo atteggiamento sia imperdonabile quando è rivolto contro lo Spirito Santo e non verso Cristo o Dio. Gesù disse: «Eppure, io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Giovanni 16:7-11. Un compito dello Spirito Santo è convincere gli uomini riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Tutti gli uomini, prima o poi, sono convinti di peccato perché non credono in Gesù. Sono convinti che tutto ciò che la Scrittura dichiara di Gesù sia vero. Sono convinti che il diavolo abbia partita persa. Con questa persuasione l'uomo ha due sole possibilità: o attribuire la convinzione a Dio, riconoscendo di peccare perché non crede in Gesù, oppure pensare che tale convinzione sia il risultato della propria opinione o di altro, e quindi rifiutare l'opera di Dio. Con un tale atteggiamento, egli bestemmia contro lo Spirito Santo. Dopo questo rifiuto da parte dell'uomo, per Dio non vi è altra opera che possa salvare la sua creatura. Quando Gesù disse al Padre di perdonare coloro che lo crocifiggevano, lo fece perché non sapevano quello che facevano. Luca 23:34, e Paolo fu perdonato perché fece tutto per ignoranza. 1 Timoteo 1:13. Ma quando una persona è consapevole di quello che fa, non vi sono più attenuanti. Un'altra domanda che tormenta alcuni è questa: è possibile compiere la bestemmia contro lo Spirito Santo senza rendersene conto o involontariamente? La risposta è no. In Ebrei 6:4-8, brano così oscuro per tanti, sono citate delle persone che hanno udito l'Evangelo, sono state partecipi delle benedizioni spirituali e hanno sperimentato la presenza dello Spirito, e poi volontariamente lo hanno rifiutato. Per queste persone non vi è più possibilità di salvezza. È impossibile ricondurli di nuovo a ravvedimento, perché hanno contristato o rifiutato l'opera dello Spirito Santo che li convinceva di peccato. Il loro rifiuto non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno, perché in questo caso non si tratta tanto di un peccato quanto di un atteggiamento di cuore. Gesù è morto per tutti i peccati degli uomini. Ha riconciliato l'uomo a Dio, il quale non imputa più agli uomini le loro colpe, 2 Corinzi 5, 19. Ma il sacrificio di Cristo è invalidato dall'atteggiamento di rifiuto dell'uomo. Una persona che rifiuti la grazia disarma Dio per questo atteggiamento, per il quale l'autore della lettera agli Ebrei chiede ai suoi lettori: se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Di quale peggior castigo, a vostro parere, sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il Figlio di Dio e avrà considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e avrà disprezzato lo spirito della grazia? Noi conosciamo infatti colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, meno e ancora il Signore giudicherà il suo popolo, meno. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei 10, 26, 31. Cadere nelle mani del Dio vivente significa essere eternamente condannati da Lui. Anche l'Apostolo Giovanni cita la bestemmia contro lo Spirito Santo, quando afferma: vi è un peccato che mena a morte, 1 Giovanni 5 e 16. Molte sono state le interpretazioni riguardanti questa frase. Un'affermazione così categorica, radicale, assoluta, può trovare, a mio avviso, solo collocazione nel peccato che non può essere perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Giovanni non consiglia di pregare per esso, perché è consapevole che in questo caso la preghiera sarebbe inefficace. Qualcuno si chiederà: che cosa ne sarà di quelle persone che, in perfetta buona fede, non arrivano comunque a comprendere il messaggio di Dio? Innanzitutto non esiste la buona fede. Quando si conosce la verità, la verità o si accetta o si rifiuta. Chi ode l'Evangelo e continua imperterrito a vivere come prima è inescusabile. Una persona che non comprenda l'Evangelo è altrettanto inescusabile, perché il compito principale dello Spirito di Dio è illuminare la mente e il cuore per convincere così gli uomini di peccato. Chi non ha compreso l'Evangelo lo deve alla sua precisa volontà di chiudere deliberatamente gli occhi davanti alla verità, o, come scrive l'Apostolo Paolo, non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò, continua sempre Paolo, Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. 2 Tessalonicesi 2,12. Il ragionamento di Paolo è chiaro. A chi rifiuti di credere alla verità, Dio suscita uno spirito atto a credere nella menzogna, affinché la persona sia giudicata. Non vi sono quindi dei predestinati alla perdizione. Esistono solo persone condannate, sì, a credere alla menzogna, ma per aver in precedenza rifiutato l'opera di salvezza, rivelata loro per mezzo dello Spirito Santo. Per alcuni potrebbe sembrare strano che Dio abbia posto questa eccezione al perdono, essendo egli per sua natura misericordioso e pietoso. Anche nell'Antico Testamento però vi era un peccato che l'Eterno non perdonava, neppure se il colpevole chiedeva misericordia abbracciando i corni dell'altare, segno questo della più alta prostrazione e pentimento. Era il peccato di colui che agisse con premeditazione contro il prossimo, per ucciderlo con inganno, Esodo 21, 14 e Numeri 35, 16, 34. Anche in questo caso notiamo che Dio non perdona l'intenzione o la motivazione di un peccato, Colui che uccideva con premeditazione era pienamente consapevole di ciò che faceva e, quindi, non poteva essere perdonato in nessun modo. Anche se un figlio di Dio, cioè colui che ha affidato la sua vita a Cristo, non potrà mai commettere la bestemmia contro la persona dello Spirito Santo, può commettere verso di essa altri peccati. Quali? Resistere Atti 7,51. Rattristarlo Efesini 4,5. Atti 5. Atti 5, 3. La grande responsabilità di un figlio di Dio è essere al credente non resta che lodare Dio per essere stato fatto, mediante lo Spirito Santo, partecipe della natura divina, 2 Pietro 1, 4, ed essere così stato reso atto a testimoniare, con l'Apostolo Giovanni, nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché qual egli è, tali siamo anche noi in questo mondo, 1 Giovanni 4 e 17. Dopo queste riflessioni, non vorrei che qualcuno avesse una reazione sbagliata. Prima di tutto, la mia preghiera è che nessuno di noi attribuisca, sull'unica base di un giudizio personale, la bestemmia contro lo Spirito Santo ad alcun'altra persona. Nessuno di noi ha questo diritto. Solo Dio conosce i cuori, 2 Timoteo 2,19. Inoltre, non vorrei lasciare a nessuno il terribile dubbio di aver commesso la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ci è un modo per essere sicuro di non averlo compiuto. Voler essere salvato, volere vivere per Dio, accettare ora il sacrificio di Cristo, non volere essere perduto. Tu che leggi facendolo, ora puoi definitivamente scongiurare questo pericolo. La bestemmia contro lo Spirito Santo è allora opporsi all'azione del suo convincimento di peccato per essere salvati, mettendo in tal modo a tacere, una volta per tutte, la voce di Dio. Gesù con i suoi miracoli annunciava ai contemporanei che Dio stava operando. Dio oggi ti sta parlando, in mille modi e in mille maniere. Se senti la voce di Dio rispondi, se non senti la chiamata di Dio, invocalo, affinché Lui ti chiami. Confessagli che lo vuoi amare sopra ogni cosa, più della tua stessa vita. Prega, bussa, picchia e ti sarà aperto. Solo così non avrai ragione di temere di compiere il peccato imperdonabile, quello contro lo Spirito Santo. Febbraio 2003. Ellero.